Mamma mia, vedi, mamma non va. Mamma mia, non so. Mamma mia, bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Vabbè, ma non devi urlarci. Infatti, perché sento, tutto questo entusiasmo? Infatti, enfasi. Ci sentono già bene, sì. Così, senza urlare. Vabbè, allora, ti voglio parlare di una storia un po' triste. La storia di questo Ortiz Daley, che è un commentatore televisivo di Channel 4, che è stato mandato allo sbaraglio dal suo canale durante i mondiali di atletica. Infatti lui è un presentatore non di sport, però l'hanno messo lì a commentare lo sport e ha fatto succede. Un sacco di figuracce, disastro, le lamentele del pubblico hanno costretto la rete a sostituirlo in corsa. Tra le mille indecisioni, mille strafalcioni di Ortiz Daley brilla una perla, che è quando Daley ha definito Pistorius l'uomo più veloce del mondo senza gambe. Questo è molto divertente. Beh, comunque domenica su Rai 2 Victoria Cabello esordisce alla conduzione di quelli che è il calcio. Ebbene? Beh, anche lei è una presentatrice esperta. Sì, è vero, certo. Però anche lei di sport non sa niente. È anche vero quello, quindi? No, niente. Guarda che non sta bene augurare certe cose dei colleghi. Beh, io mica auguravo niente. Però gufavi. Vabbè, ma è diverso. Frequentando K, non tamburellare con le dita sul tavolo, che non va bene. C'era un mio professore di latino a scuola che, se tu facevi così con la penna, mentre lui spiegava, veniva lì e diceva bitte, bitte, che vuol dire per favore, bitte, e ti guardava un po' così, tu diceva ah, e allora facevi l'ultimo. Capito? Vabbè. Frequentando la rete K si nota una certa deriva ortografica, quindi ho deciso che ogni tanto butteremo lì quelle due o tre regolette di ortografia per tutti i bambini cresciutelli ma ignorantelli. Perché è una cosa che puoi fare da solo, io posso andare No, anche tu devi collaborare, devi aiutarmi, perché non è semplice spiegare la grafia quando si è così oralmente, non si può fare nemmeno un segno grafico, quindi allora cominciamo con l'accento sulla E, va bene? Sì. Allora, l'accento sulla E può essere sbagli parlando. Esatto, però quello può essere grave o acuto, non anche a scrivere però. A parte quello della pronuncia, lasciamo perdere. Pensiamo proprio alla grafia. L'accento può essere grave o acuto. Sì. Grave è quando parte da nord-ovest e scende verso sud-est. Immaginiamo una direttrice Cuneo-Lecce. Ed è acuto, attenzione, non ridere, è acuto quando si parte da sud-ovest e si sale verso nord-est, quindi una direttrice, diciamo, Napoli-Trieste, è chiaro? Sì. Perché spiegarlo a voce non è facile. Però potevi cominciare una roba tipo la A con l'H o senza H. Ma vabbè, ma ormai ho cominciato con la E accentata. Dai. Allora, la E con l'accento grave è aperta, tipo caffè. Oppure il verbo essere. Egli è. Non egli è, come dicono a Torino. Come egli è. No, io non lo dico così tanto. Vabbè, accento grave in questo caso, cioè Cuneo-Lecce. Cuneo-Lecce. Okay. Caffè. Cuneo-Lecce. Ma quanto c'è di distanza tra Cuneo-Lecce? Non importa, se tantissimo. Lo sapete mandatelo sulla segreteria telefonica 02 46 52 4495. Quindi l'accento grave, cioè Cuneo-Lecce. Caffè Cuneo-Lecce è Cuneo-Lecce. Si usa pochissimo anche. Diverso dal caffè a Lecce. Fanno meglio a Lecce forse. Vabbè, comunque, più ristretto. Vabbè, comunque di solito le parole invece come perché, affinché, Champs-Élysées, quelle hanno tutte l'accento acuto, e cioè l'accento Napoli-Trieste. Capito? Napoli-Trieste. Sì. Quindi non scrivete perché, ma perché. Quindi fate Cuneo-Lecce, non Napoli-Trieste. Perché? Bisogna schiacciare il testo. Sì, Drago, ho capito. Adesso metti anche U alla fine, cioè. Bisogna schiacciare il tasto delle maiuscole, è vero, per fare perché. Sì. È una fatica da fare però, cioè anche se per voi è faticoso. A parte che ci sono poi anche quelli che usano la K al posto del CH. Cosa c'entra adesso? So, stiamo parlando di ortografia, quelle sono abbreviazioni. Sì, però non mi piace comunque. Vabbè, ti dico che non c'entra, io parlo di quelli che credono di scrivere giusto quando scrivono te l'ho detto usando lo pronome, non lo l'apostrofo o. Ma scusa, ma cosa è diventato? Non è mai troppo tardi sto programma? Ma cioè, certo, è così. Ma sono ormai casi disperati, ma siamo sorelli. 24, qui sono tutti laureati. Sì, anche l'economia laureati, commercio, la Bocconi, capito? La Luis. Anche loro, però, sono laureati su una cosa molto specifica. Non è detto che te l'ho detto. Non è detto che sappiano la lingua, questo è un effetto del postmoderno, no? Cioè che tu ti laurei in un segmento di conoscenza molto piccolo, ma magari non sai scrivere. Non c'è tempo per tutto. Cioè questo è il postmoderno. Il postmoderno sta racchiuso nella frase: non c'è tempo per tutto, oppure non è mai troppo tardi. Ma l'accento com'è? Nino Pinocchietto va a palazzo. Pinocchietto va al palazzo. Con i libri sotto braccio. Con i libri sotto il braccio. La lezione non la sa. La lezione non la sa. 104 piglierà. 104 piglierà. Con il 5 non si passa. Con il 6 così così. Con il 6. Con il 7 benvenino. Con il 7 benvenino. Con il 8 benvenotto. Con il 8 benvenotto. Con il 9 professore, con il 10 professore, direttore. Con il 10 direttore. 5 settembre, titolo della pagina esteri del Times. Allora, Berlusconi paid 500.000 euros in hash money to a cocaine dealer pimp. Traduzione, Berlusconi ha pagato 500.000 euro per far star zitto un pappone spacciatore di cocaina. No. Allora, un titolo così, anche se in apparenza sembra malevolo, in apparenza, sì. Forse anche un po' irriguardoso e offensivo, in realtà, se vai a vedere, fotografa la realtà in modo molto chiaro per tutti. Sì, questo è grazie alla tipica sintesi della lingua inglese. Oh, allora, infatti, hash money, hash money. È fantastico, perché è la definizione stringata, anche quella della definizione stringata di Tarantini. È fantastico. Un cocaine dealer pimp, capito? Abbastanza chiaro, abbastanza rispondente al vero, no? Sì, invece qui i giornalisti in Italia stanno tutti attenti e strausano l'aggettivo presunto. Presunto. Qui il titolo sarebbe stato un presunto Berlusconi. Come? Eh sì, perché no, e loro dicono magari è uno che si è fatto passare per lui e poi a sua insaputa ha pagato Tarantino. Come Paul McCartney, che è morto, è stato sostituito dal sosia. Il presunto nel 66. Paul McCartney sarebbe in Italia. Certo. Allora, il presunto Berlusconi ha pagato 500.000 presunti euro. Presunti. Eh sì, perché può darsi anche che fossero falsi o che fossero un'altra valuta. Per far star zitto un presunto pappone e presunto spacciatore di presunta cocaina. Ma come? Anche la cocaina è presunta? Eh beh, tu l'hai analizzata, sai che era cocaina. No. E allora, se fosse stato gesso, borotalco, zucchero? Vabbè, ma con la cocaina è normale che sia così. E poi, scusa, le oggettine, non potevi mica mantenerle a gesso e borotalco, quelle se ne accorgono, sono esperte. Eh sì, a zucchero nemmeno. No, al massimo dolcificante, poi vanno a vomitare e poi un tiro di bamba. Tornano i collaterali. I collaterali. Ma no, i collaterali nel senso di quelle pubblicazioni che i quotidiani ti danno così con un euro in più. Cos'è una notizia, ti tirano addosso. Ah sì, perché hanno passato mesi di crisi, insomma, sembrava che non ci fossero più. I quotidiani stavano rinunciando a questa cosa. Adesso invece i corsi di inglese, ad esempio, stanno andando benissimo, fanno ridere, sono tutti un po' più moderni. Scusa, allora facciamo anche noi a Chiedo Asilo qualcosa, collaterale. E cosa? Non so, un corso collaterale. Ma un corso di cosa? Collaterale, non so, basta che sia collaterale. Collaterale di cosa? Facciamo un corso di tutto. Cioè, tu hai cominciato prima gli accenti, l'ortografia. Ma no, di più largo, zoom largo, cioè zoomiamo fuori. Facciamo una bella infarinatura generale di cultura. Ma non così, si un corso può, di ma infarinatura. Ma dove siamo? Non siamo mica come nell'Ottocento che c'erano i compendi. Ma guarda che ci sono le multinazionali che sanno fare sto mestiere. Per esempio la Acme, la multinazionale, quella anche di Wile E. Coyote, insomma, quella. E vuoi stringere un accordo con loro? Ma come no? Con loro si può fare tutto. Don't touch that dial. We'll be right back after these brief words from our sponsors. Fai da sempre il guardiano notturno in un alto forno e non hai mai capito che esistono i gradi Fahrenheit e quelli Celsius? Fai fatica a capire se devi stare dalla parte di Alawi o di Al-Zawahiri? Ti sei sempre chiesto perché se George Orwell è un uomo, George Eliot è una donna? Il motivo è uno solo. Sei ignorante. Ma se ti può consolare, sono tanti gli ignoranti come te. Ora, torna a sorridere, perché adesso basta una bella infarinatura Acme per cominciare a discutere di tutto come se fossi un grande esperto. Nabucodonosor, certo, Nabucodonosor. Quando Gloria Swanson litigò con von Stroheim? Il vorticismo, certo, il vorticismo. Infarinatura Acme, l'unico corso di cultura generale che pur utilizzando farine animali ottiene grandi risultati. Con Infarinatura Acme ne saprete tanto come prima, ma vi usciranno dalla bocca frasi dotate miracolosamente di senso compiuto e a fuoco sull'argomento trattato. Beh, certo, la guerra in Iraq è proprio un problema geopolitico. Infarinatura Acme, poco di tutto, ma di tutto un po'. Beh, certo, Nabucodonosor. Certo, Nabucodonosor. Io, guarda, con questa infarinatura Acme mi sento più sereno ad affrontare, certo, capito, le conversazioni. Però in realtà bar, bisognerebbe studiare all'università, fare il dottorato. Dottorato. La cultura vera è quella. Ma per dire Nabucodonosor. Lasciate allora le vostre pillole di saggezza, così contribuite anche voi all'infarinatura Acme generale chiamandolo 02 46 52 44 95. Ma è possibile che noi siamo qua da due settimane, abbiamo la segreteria telefonica, per il numero verde della radio c'è tutto il cartello con anche la dicitura deve essere, invece noi abbiamo un post-it tutto accartocciato con il numero della segreteria telefonica, ma anche il numero di Fortunato. Sì, ma non Fortunati. E chi è? Sì, come chi è? Quello che gestisce tutto quanto. È per quello che non funziona. Fortunati!